Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori. Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante. Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Bentrovati anche quest'oggi sulle frequenze di Rock FM. È Giulio Caperdoni a parlarvi come fa tutti i giorni fra le 19 e le 20. A meno che voi non vogliate decidere un altro orario e magari addirittura un altro giorno. Potete farlo, lo sapete, no? C'è il podcasting di cui trovate tutte le indicazioni su myspace.com/eclettica oppure anche su www.radiorockfm.com. L'indirizzo di mail di chi vi sta parlando è giulio@radiorockfm.com, non solo per scrivermi direttamente ma anche per l'iscrizione alla lista nera di Eclettica che vi permette di ricevere nella vostra casella di posta la playlist che contiene al suo interno tutto quanto quello che vi sentite in trasmissione in termini di musica, di lettura e di sprazzi cinematografici, playlist che viene pubblicata alla fine di ogni settimana. Dal momento che lo chiede con tanta buona grazia, giovanotto, io le dico, con le disgrazie basta incominciare. E quando sono incominciate, non c'è niente che le faccia fermare. Si estendono, si sviluppano come una merce a buon mercato e di largo consumo. L'allegria, invece, compare mio, è una pianta capricciosa, difficile da coltivare, che fa poca ombra, che dura poco e che richiede cure costanti e terreno concimato. Né secco né umido, né esposto ai venti. Insomma, una coltivazione che viene a costare cara, adatta a quelli che sono ricchi, pieni di soldi. L'allegria va conservata nello champagne, mentre la cachaça, tutt'al più, consola dalle disgrazie, quando consola. Questo era l'incipit di Teresa Battista, stanca di guerra, di Jorge Amado. Gangbusters laying it thick, a boreal slee stack lost in the sticks. It's warm for a witch trial, don't you agree? Cold are the hands that would ever touch me. You got the energy of a classic creep, with sex vibe for miles and shark eyes asleep. No intuition, no need to sleuth. Poor is the man who would sully my song undeveloped beyond the first bar. For all of your hassle, what did you win? Woe is the man with the Cheshire Cat grin. Thank you. in. But don't for the dilettante, we'll come soon enough, all right. The panic is leaking through every clear pore. Your enemies weaken, a satellite torch. So root for the crucifix on the scoreboard. I'm in love with the people. I'm in love with the saints. I'm in love with the soldier from Baltimore. I'm not really feeling up to this today. So I'm gonna have to forfeit. Forfeit? What's that mean? It means that you win without a fight. Without shooting? You can't do that. Hey, you can't do that! You know what I think? I think you ain't nothing but a gutless yellow turd. And I'm giving you to the count of 10 to come out here and prove I'm wrong. Sadly, they clipped your wings. You can't fly away, electric bird. Yeah, someone took your tweet when they fed you that bad seed. You can't fly away, electric bird. Well, you're you fell into this path. Making your È ritornato Stephen Malkmus e si fa accompagnare, come succede da qualche anno a questa parte, dai The Jicks. Baltimore è il pezzo che ha aperto Eclettica di quest'oggi. Poi dall'Australia è stata la volta di Sia con Electric Bird, che di tanto in tanto, direi abbastanza spesso, ritorna nelle playlist di Eclettica da qualche tempo a questa parte. Ora un nome nuovo. Non è nuovo per chi ha ascoltato l'Eclettica nella versione corta della settimana scorsa, è nuovo perché uscirà solo nel mese di febbraio con un album, un gruppo di Chicago, il cui nome è Cave. Il pezzo è molto lungo, ma dal mio punto di vista, in my humble opinion, è molto molto bello. Si intitola Hunt Like Devil. Ho sempre avuto paura, ma oggi è ancora diverso. Oggi, appena sveglio, sento già fra le costole un trasalimento angoscioso, che batte, fa male, che non riesco a soffocare con le sole forze della ragione. Devo aprire gli occhi, guardare, guardarmi e finalmente rendermi conto che questa paura è assurda. Che la stanza dove ho dormito, benché estranea, non nasconde pericoli. E così la casa, la strada fuori, la città. Poco fa, il debole scricchiolio di un passo, nella camera sopra la mia, mi si è rivoltato in cuore e in gola, come una misteriosa minaccia. Ecco, sollevo a due mani il lenzuolo e mi guardo, con la cautela che ormai so mettere in questi gesti di aiuto premeditato. Questo era l'incipit di Un'anima persa, di Giovanni Arpino. Divento vecchio e noioso, pietoso e ridicolo. Vorrei gettarmi nel vuoto e finire distrutto, un rutto e una lacrima. Sono tanto allegro, che bello vivere a me. Ed ora sono felice, sono contento e i miei giorni ridono con me. In silenzio affogare in mare o in un bidet. E poi al supermercato ho preso un litro di vino, una penna e una busta blu. Blu. Ed ora sono felice, sono tanto allegro. Che bello vivere a lei. Ed ora sono felice, sono contento e i miei giorni ridono con me. Chissà se mi rimpiangerai. Sono felice, sono tanto allegro. Che bello vivere a lei. Ed ora sono felice, sono contento e i miei giorni ridono. Out there, son. I got $20 gold bet on you, so don't let me down. Three! I got $30 gold bet again you, so don't let me down. Four! You better face up to it, son, cause if you don't go out there... What? Five! What if I don't go out there? You're a coward. Six! And you'll be branded a coward for the rest of your days. Everybody, everywhere, will say Clint Eastwood is the biggest yellow belly in the West.